Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Io l'avevo detto, insomma, che Oscar arrivava contentissimo. Infatti fischiettava in redazione. Fischiettava, era contento, il Monte Pasqua. Tu lo sai qual è lo slogan che campeggia a Siena adesso sulle turrite, qual no? È? Il partito non se n'è mai andato e lo Stato ora è rientrato. E qui ecco, la canzoncina questa, nelle scuole si fa cantare questa. Era contentissimo Oscar, sborsare, di scucire parte di questi 20 miliardi. Ma è perché, capisci, sono i destini inevitabili in questo paese. Vedi che poi alla fine... Quando i partiti fanno i banchieri, i contribuenti fanno i pompieri. Questo è, capisci? È così, funziona così. Vedi che poi alla fine anche tu sei stato rieducato e allegro oggi ti presenti tu a Sponte a pagare. Rieducato è il termine giusto, cioè si riferisce infatti ai termini con cui il Partito Comunista Cinese interveniva sui suoi cittadini, per così dire. Vabbè, dai, allora, caro Oscar, ci siamo con intanto ci siamo. I santi. Intanto i santi, pensando che lo Stato rientra nelle banche di Natale, così siete distratti, no? Non crediate che sia un caso, è tutto fatto apposta, cari ascoltatori, perché si prende a calci la TMPS da 3 anni e da 3 anni e adesso ci si riduce a Natale con Padua anche dice in Parlamento, ma comunque le banche sono sane, i santi, hai ragione tu. Innanzitutto oggi tra tutti un solo grande santo, anzi una grande santa, perché Francesca Saverio al maschile Cabrini è stata veramente un personaggio straordinario. Era una maestrina che godeva davvero, lo chiamavano maestrina, non è un mio modo di ridurne l'importanza, perché al contrario io ne sono un grande fan, di salute molto malferma, di Sant'Angelo Lodigiano. E poi la vocazione di occuparsi della scuola per chi non aveva i soldi per frequentarla, dei poveri, delle case, delle mense per i poveri in America, per gli emigranti italiani in America. Ed è la santa di milioni di italiani che tra fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, come sappiamo, andavano sulle navi perché all'epoca eravamo noi a emigrare. E ha fatto delle cose nella sua vita, fino a che è scomparsa nel 1917, che sono rimaste nella storia della comunità italiana in America, ed è davvero una figura, secondo me, molto molto importante, indiscussa. Cioè ci sono dei fenomeni di fronte alla quale anche chi è scettico sulla fede non può che dire, beh, questa è una persona che ha fatto delle cose straordinarie. Cosa ricordare oggi? Nel 47 la Costituente varava oggi la Costituzione con 452 voti favorevoli contro 62. A proposito di Siena e le banche, nel 1978 il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese diceva che Mao Zedong, persino Mao Zedong poteva aver sbagliato, persino Mao Zedong poteva aver sbagliato a pensare che lo Stato dovesse avere le mani in tutta l'economia nel 78 i comunisti cinesi, cari ascoltatori, però... Può essere che invece sbagliassero allora ad ammetterlo. E nel 1994, vedremo il nesso subito, Berlusconi si dimette oggi perché la Lega lo molla. Ah, attenzione, ma Berlusconi che ieri, tra l'altro, allora, cari ascoltatori, 800240024, Berlusconi ieri ha fatto intanto un passo vicino a Gentiloni, che ha detto che è una persona per bene. È un passo bello e grande. Disponibile. Poi ha votato per lo scudo di 20 miliardi. Ma Tremonti aveva già dato i Tremonti Bond. E la destra dà una mano alla sinistra per avere in cambio le mani su Mediaset. E non solo, Berlusconi ha detto, ma Salvini, che è il naturale partner in teoria di centrodestra, ma Salvini cos'è? Sentite Berlusconi. Non è che stanno nascendo delle grandi intese economiche, cioè sulla base delle necessità dell'economia, col governo Gentiloni si possono fare cose insieme? Ah, fra l'altro lei sa che Salvini l'ha già definito un inciucio questo, eh? Sì, vabbè, Salvini, il giovane comunista Salvini rimane ancora saldamente radicato in lui e quindi molto spesso ha delle uscite che non sono apprezzabili. Ma il giovane comunista! Noi ce l'abbiamo qui, l'abbiamo chiamato al volo. Matteo Salvini, giovane Mao Zedong, buongiorno. Onorato di essere in vostra compagnia, di aver frequentato le scuole elementari alla Cabrini di Milano, che proponemmo come nome per l'aeroporto di Malpensa, visto che accompagnava e tutelava e seguiva gli italiani in giro per il mondo, e quindi mi avete riportato indietro di qualche anno. E anche Berlusconi mi ha riportato indietro di qualche anno, mi sembra che anche in questo caso le vicende aziendali, personali e familiari prevalgano su ragionamenti più generali. Può essere comprensibile dal punto di vista umano, non è comprensibile dal punto di vista dell'ascoltatore, del cittadino, dell'elettore. Quindi dice che Berlusconi sta pensando a salvare le proprie aziende. Beh, fino a ieri Forza Italia diceva che avrebbe votato contro, al massimo si sarebbe astenuta su questi 20 miliardi, su questo assegno in bianco, e chiariamo bene, perché probabilmente ci sono dei risparmiatori all'ascolto, sull'aiutare i risparmiatori fuori dubbio siamo in prima fila, però vorremmo avere nomi e cognomi di chi ha avuto soldi da Montepaschi, Banca Etruria e via dicendo, senza averne titolo e non li ha restituiti. Vorremmo che fosse istituita una commissione d'inchiesta, perché qualcuno quelle decine di miliardi di euro se le è fumate, e vorremmo avere un governo che va a Bruxelles e denuncia la direttiva sul bail-in come inapplicabile, irresponsabile e da superare. Insomma, però io sono sempre stupito, Oscar Salvini, quando sento, come dire, adesso già ce l'ha detto una volta, il conflitto di interesse di Berlusconi, secondo lei proprio è la questione delle aziende, però no, che i francesi stessero cercando di portarsi via un'azienda strategica per l'Italia, prescindere dall'azionariato. E è una notizia recente. Questa settimana. No, ma voglio dire che Berlusconi abbia delle aziende da tutelare, insomma, è il tema che da 20 anni. Ma io giudico le persone dai comportamenti. Fino a settimana scorsa Forza Italia era all'opposizione. Sul referendum ha mantenuto una posizione coerente, almeno in questo periodo, sul governo Renzi e il governo Gentiloni. Aveva avuto posizioni coerenti, ripeto, fino alla settimana scorsa. Poi quando Berlusconi mi dice Prodi poi non è che abbia governato così male, non escludo di collaborare con Renzi dopo le prossime elezioni, e Gentiloni conti su di me su tutto, cosa è successo in questa settimana? Non so, vabbè che si avvicina l'arrivo di Babbo Natale, di Gesù Bambino, però immagino che tutti siano arrivati alle mie conclusioni. Caro Oscar, qui si rompe un patto che non so che margini di manovra ci sono per ricomporre. No, poi patti storia del centrodestra. Oggi era l'anniversario, appunto, ripeto, dell'emissione di Berlusconi nel 94, perché la Lega l'aveva mollato, poi ci si lascia, ci si torna, ma non è questo il punto. Però è interessante, perché anche nel testuale che abbiamo sentito, quando Politto fa la considerazione, sta parlando delle aziende a Berlusconi, no? E lì gli mette in cauda l'osservazione su Salvini, quindi c'è una coerenza anche nella risposta di Salvini, secondo me, perché Salvini coglie esattamente che Polito ha chiesto a Berlusconi delle aziende, non è che c'è uno scambio a proposito Salvini, e lì si sente il tono di voce che sa, ecco, do un'interpretazione, quindi secondo me io capisco anche che Salvini, ma perché comunista le ha detto, secondo lei? Ma perché Berlusconi vede comunisti dappertutto. Poi nel giorno, peraltro, dove il Corriere della Sera, con un, non so se l'hai letto Alessandro stamattina, con un articolo veramente imbarazzante, lo dico da giornalista, a proposito dei fatti di Berlino, mi mette ovviamente dall'altra parte della barricata, estremista, fascista, razzista, xenofobo, populista, quasi che i fatti di Berlino fossero colpa di Salvini, della Le Pen, di Putin, della Frauke Petri. È veramente un peccato ridurre a bagar politica quelle che sono vite umane che saltano, e quindi io spero che il Parlamento italiano dimostri saggezza al di là dei colori politici. Se devo stare alle dichiarazioni verbali del ministro Poletti e scritte della ministra Fedeli, temo che il 2016 non si chiuda alla grandissima. Va bene Salvini, intanto la ringraziamo. Risposta comunque misurata, ironica ma misurata di Salvini, diciamo. Un saluto ai compagni di Radio 24. L'Oriente Rosso, compagno. Allora, caro Oscar, no, tra l'altro Salvini ci ha introdotto anche il tema che certamente fronteggiamo, il tema del terrorismo, perché tra l'altro abbiamo un ospite che ci ascolta e che vogliamo vogliamo salutare, che è il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, qua riflettavamo con Oscar. Io ho detto prima di entrare in onda, ma non sembra un po' esagerato quando ho letto che ci sono, pare, anche i tiratori scelti a protezione dei mercatini, dei grandissimi, bellissimi, primo, straordinari mercatini. Se è vero, magari è un'esagerazione giornalistica. Perché? Però lasciami dire, Alessandro, che abbiamo anche colto dal nuovo ministro dell'interno, Minniti, una certa qualconcitazione per far vedere che con lui c'è un cambio di marcia, serietà, blindati, no, annunciati nelle piazze. La questione è molto seria, insomma, tutti temiamo. Beh, straordinari, tra l'altro, e affollatissimi i mercatini di Bolzano, oltre che Merano. Devo dichiarare che nei dintorni delle montagne di Bolzano non sono collocati né mortai né canoni a difesa della città. Questo lo posso dire con tranquillità. Però devo dire che il lavoro fatto dal signor questore, ci eravamo incontrati ancora prima dell'inizio dei mercatini, che sono iniziati, del mercatino di Bolzano, che è iniziato a fine novembre, erano state rafforzate le misure di sicurezza, sobrie, non visibili, a volte sì, a volte no, erano solo dei segnali, quindi erano già state potenziate, c'era un'opera di maggiore controllo, perché il mercatino di Bolzano è il più visitato, ha quasi 1 milione di visitatori, e quindi poteva creare in questa situazione dei problemi. Adesso abbiamo solo rafforzato, secondo le direttive del Ministero dell'Interno, del Questore, gli accessi alla piazza, impedendo il passaggio di camion e di mezzi pubblici al di sopra le 3,5 tonnellate. Quindi nulla di eccezionale, però creerà dei problemi di viabilità evidenti. Però, sindaco, purtroppo viviamo in una situazione in cui, tra l'altro, c'è questa nuovo fronte dell'utilizzo dei camion. Poi purtroppo siamo in una situazione, lo dicevamo sempre ieri, che se si scongiurano i camion, purtroppo... Ma io però non ho capito una cosa, e questo chiedo al sindaco di far capire, e questo anche per spiegare a chi poi in questi giorni viene in vacanza da quelle parti, dal resto d'Italia... Perché non vorrei che sui giornali, con l'idea che Bolzano viene presentata come il core di questo rafforzamento straordinario, che non ha praticamente uguali in tutte le date, perché è vero che anche a Milano hanno messo le barriere per strada e così via. No, ma la stessa la domanda è questa, perché ieri l'ANSA, l'agenzia, alcune testate sottolineavano come se ci fosse una particolare attesa dalle vostre parti. E io non riuscivo a capire in base a cosa. Ecco. Ma in base a un'enfasi che è un difetto della stampa, di enfatizzare ogni virgola, farla diventare una collina, la collina una montagna. Sono le norme di prevenzione che sono state diramate a tutti i questori dal Ministero dell'Interno, che riguarda tutte le città laddove ci sono situazioni analoghe a quella di Bolzano, con i mercatini di Natale che caratterizzano tutte le città. E quindi le prevenzioni sono analoghe a quelle di Milano, di Trento, di Bolzano. Non è una cosa, non è che ci sono i jihadisti a Bolzano in alto. Non abbiamo ancora i paracadutisti. Questa notizia, adesso al di là dei mortai cannoni, certo l'ironia, ma questa notizia dei tiratori scelti ha un po' colpito, perché sui giornali è uscita questa. Non so di tiratori scelti, glielo dico, forse facevano riferimento agli sciiti, ma quelli possono solo sparare in aria a salve, quindi non ho notizia di tiratori scelti. Questa è ci fossero, credo che non la darebbero. Beh, certo, non dovrebbero darla a lei, come neanche come primo cittadino? A me hanno dato gli obblighi del comune di Bolzano, della polizia municipale, di porre degli dissuasori laddove ci sono l'accesso a due piazze principali, alcuni metri prima, e di derotare il traffico pesante su un'altra via e di presidiare dai nostri vigili urbani. Punto, tutto lì. Ci sono 3 punti d'accesso a Piazza Walter, Piazza Domenicani, quelli verranno presidiati, certo, e sarà impedito l'accesso ai mezzi pesanti. Altro non c'è. No. Sindaco, noi la ringraziamo. Sì. Grazie a tutti. Sindaco voi, di Bolzano, anche Renzo Caramaschi. Magari abbiamo dato una mano anche all'economia di Bolzano. Vorrei che qualcuno avesse paura. Ma non no, andasse ma più. Infatti. No, l'economia di Bolzano sta molto bene. Se quella dell'italiana fosse come quella di Bolzano, non c'è dubbio. Tutti. Vabbè, adesso molti ci diranno, certo, c'è l'autonomia speciale. Non entriamo in questo. Non è il giorno in cui dobbiamo parlare di questo tema. Resta il fatto che è così. Certo, però. Oscar, ieri, no, ecco, prendere in giro forse il verbo sbagliato, perché non c'è niente da, no, da ironizzare, ma sulla Germania prendevamo in giro dicendo adesso sono loro a dire porca miseria, questo qui è arrivato a Lampedusa e doveva stare in carcere, l'avevate espulso. Oh, ma ecco, aspetta, riflessione comune. E poi ce lo ritroviamo comune, perché qui, appunto, è inutile dire, no? Chi ce l'ha più lungo e chi ce l'ha più corto. Il fiammifero, sto dicendo, non equivocate a casa, ecco. Perché la vicenda dei primi anni in Italia, l'ingresso a Lampedusa, i 4 anni in carcere, poi il fatto che esce e a quel punto gira libero dall'Italia all'Europa. Pure espulso. Esatto. La stessa cosa analoga in Germania, dove sì, in realtà certo, al confine lui ha questa cosa per cui dice tu qui non ci dovresti stare, però comunque sei tollerato. Ho capito che non abbiamo gli strumenti allora di fronte a questa cosa. La fotografia del fatto di come tutti i grandi paesi europei a questo punto, non solo l'Italia questa volta, l'Italia, la Germania, la Francia da cui entra ed esce, sono ancora sprovvisti di strumenti adeguati per questa vicenda qua. E questo è vero. Tra l'altro mi arrivano vari ascoltatori, ci scrivono, caro Oscar, effettivamente oggi è il 21, che giorno è il 21? E ci chiedono i motivi, no, 22, 22, oggi, 22. Ci scrivono, ma l'inaugurazione della Salerno Reggio Calabria? No, ragazzi, è annunciato oggi. Oggi c'è. Oggi, parte la carovana. No, poi, Renzi su Facebook mi dicono, ha fatto la scommessa. Ma ci sarà Renzi in quanto... No, c'è Renzi ovviamente, perché Renzi non ha incarichi di governo, però Renzi li obbliga ad andare. Quello che i giornali... Sì, no, beh, ma questo... Li obbliga, dai, il ministro Delrio ci andrà, il ministro infrastrutture e trasporti. Però quello che vedremo, il fatto già annunciato che sarà lì a controllare quanti cantieri riaprono automaticamente, perché pare che, cioè, perché pare sia così. Oh, poi tra l'altro vi dico anche che oggi c'è la notizietta che è uscita ieri, i giornali la tengono un po' bassa, ma perché ci sono molte altre vicende tra l'Italia e MPS di cui abbiamo parlato, però è uscita fuori anche la valutazione del canone Rai in bolletta. Il canone Rai in bolletta, a differenza di quanto la Rai diceva piangendo, ma vedrete che andrà male la raccolta, noi ci perderemo soldi, supererai 2 miliardi, l'ha detto in audizione parlamentare la Orlandi, il capo dell'Agenzia delle Entrate. 2 miliardi, capite? Quindi quando nella stessa legge di stabilità si diceva a malapena 1,8 miliardi entrerà. Questo ve lo dico, cari contribuenti, perché quando sentirete piangere miseria dalla RAI, fatevi scappare un risolino. Ecco, un risolino. Intanto ci chiama Stefano da Asti. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutte e due ragazzi, eccoci. Io sono indignato ormai per l'ennesimo decreto salvabanche, è qualcosa che è inutile, non è capibile, un essere umano normale non lo può capire, non lo può capire, perché è allucinante che uno Stato debba salvare per l'ennesima volta, una banca che è fallita per i propri demeriti e lasci ormai alla balia di voucher e di politiche inesistenti migliaia di lavoratori. Sì, Stefano, io poi lascio a Oscar, la cui competenza ovviamente mi surclassa la mia su questo tema. C'è il problema dei correntisti, però, cioè, uno dice non è che può far fallire, già fallire un'azienda ci sono i dipendenti, eccetera, le famiglie, ma far fallire una banca se vuol dire che non è fallita perché produce ancora reddito, sì, quindi certo, non è in fallimento. No, ma se fosse facciamo fallire una banca, comunque, c'è il problema dei correntisti, diciamo, cioè fino a 100.000 euro non rischiano nulla. Allora creiamo il fondo per salvaguardare i correntisti, ma no, c'è già, un decreto... C'è già. Ma il punto è, tu hai ragione su una cosa, caro ascoltatore, nel senso che la vicenda di Montepaschi è chiara da anni, e dal 2012 che è chiara, la politica ha preferito minimizzare, ha preferito persino con i governi di destra, in questo destra e sinistra si danno le mani, come vedi, non fare l'intervento che allora si poteva fare, perché allora non c'era l'Europa che impediva gli interventi di Stato, allora ogni paese interveniva, bisognava azzerare gli azionisti, ma non si poteva fare perché era il partito con la fondazione, e ripulire la banca e ricedere al mercato, come hanno fatto in quegli anni i francesi, gli olandesi, i tedeschi, non lo si è voluto fare. E però la banca è continuata a stare sempre più in agonia, sono cambiate le regole europee, e ciò malgrado oggi vedrete, se vedete il giornale di oggi e anche il Sole 24, a cominciare il Sole 24 ore, tutti vi spiegano i particolari di questo intervento autorizzato in bianco dal Parlamento in 20 minuti, troverete che adesso l'idea è non solo intervenire troppo tardi e con un mucchio di soldi pubblici, perché il mercato non ci crede più, è fallito l'aumento di capitale sul mercato, perché il mercato dice ma lo sappiamo che c'è lo Stato dietro l'angolo, e oltretutto aggirare le norme europee, perché si dice agli obbligazionisti comunque lo Stato darà il ristoro. La Merkel, non in prima persona, ma un suo collaboratore ha già detto che questo intervento pubblico non è cosa gradita, no, diciamo, e comunque dovrà essere controllato passo a passo dall'Unione Europea. Gentiloni si trova questa bella grana, mi dispiace dirlo perché non è un pregiudizio, ereditata da Renzi, che 7 mesi fa, essendo già chiarissimo agli stress test che bisognava intervenire, ha silenziato questo tema fino a dopo il referendum. Ed eccoci qua a Natale, nella speranza che con qualche giorno di giornale in meno non ve ne rendiate conto. Allora, tra un attimo rientriamo, ci sono ascoltatori, poi vi racconteremo anche questa storia, giusto per parlare, spaziare anche in altri campi. Sapete che c'è una farmacista, l'abbiamo raccontato ieri ai giornali, una farmacista che si è rifiutata di dare la pillola del giorno dopo, la cosiddetta pillola abortiva, a una cliente che si è presentata con tanto di ricetta. È stata denunciata ed è stata assolta. Assolta, pur essendo, perché questa farmacista è un'antiabortista convinta, ho capito, e quindi c'è il dibattito di come beh, vedi non le variabili apra una opinione farmacia dei giudici, perché ci sono sentenze di senso opposto, ma ci sono anche sentenze europee, ci sono sentenze della Corte Europea che in caso di un caso del tutto analogo sollevato da due farmacisti francesi qualche anno fa, escluse tassativamente che le convinzioni religiose, filosofiche, eccetera, eccetera, potessero esprimersi per un farmacista all'interno dello svolgimento della professione. Nella tua vita sì, ma tu nella professione no, sei tenuto a farlo. Eppure è stata ricordiamo assoluta, che la ricetta ci vuole solo per le minorenni, nel nostro paese per la pillola del giorno dopo. Quindi da parte del farmacista dire no, io non te la do, io rispetto il giudice, però è un'anomalia. Comunque ne parliamo tra poco, anche con i vostri interventi sul tema banche, eccetera, quello che volete, terrorismo, state con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, caro Oscar, siamo qui alle 8.42 minuti e c'è un ascoltatore che ci chiama, Andrea da Bologna. Buongiorno, Andrea. Sì, salve, buongiorno. Ritornavo sul discorso del terrorismo. Io mi occupo di storia da tanti anni. Io sono sempre stato uno molto scettico sulle questioni della dietrologia e le cose segrete. Però questo fatto che in Italia, per fortuna da un certo punto di vista, non si sono ancora viste azioni eclatanti, a me rimanda immediatamente a una cosa storicamente accertata, che era il Lodo Moro. Certo. E io ho un timore di pensare che forse ci possa essere in atto una cosa di questo genere qui. Ma lei forse accordo. Sa, però qualche accordo con chi? Perché sa, i cosiddetti lupi solitari, no, cosiddetti... Però voglio dire, Andrea, adesso rispondono a qualche gruppo comunque riconoscibile. Parliamoci adesso per i nostri ascoltatori. Lodo Moro significa ai tempi tra negli anni 70 accordi precisi e una linea coerente a questo con i vertici. All'epoca c'era un terrorismo di matrice palestinese, quindi contro Israele, ma con attentati in tutta Europa, in tutto il mondo, no, ricordiamolo. E l'accordo italiano fu quello di distinguersi dalla linea della durezza nel caso di terroristi che in Italia facevano attività di sostegno alle attività internazionali. Noi chiudevamo gli occhi e li restituivamo alle loro organizzazioni, e lo abbiamo puntualmente fatto. In cambio, niente attentati qua. Questo è stato il loro. Però secondo lei, secondo Andrea è così. Secondo lei, Andrea, diciamo che i segnali alle grandi centrali, no, che stanno dietro il jihadismo, ne abbiamo mandate. Adesso mi dispiace, naturalmente qualunque fonte ufficiale italiana di governo direbbe non è vero. Ma chiaro, una cosa del genere, però, se anche ci fosse, è chiaro che verrebbe smentito. Però Andrea, lei comprovato, è convintissima di questa cosa? Io sì, convinto non lo sono. Non sono mai stato uno che ama le cose tipo papelli, non papelli, no, eccetera. Però si pone questa problematica, partendo dal fatto che effettivamente l'Italia è finora è rimasta, speriamo che rimanga. Nel caso del Lodo Moro ci sono sentenze della magistratura che hanno acclarato la vicenda, quindi non è un papello così, è proprio un fatto che ha determinato la politica di Andreotti, oltre che di Moro, per decenni. Il mio unico dubbio è che qui l'interlocutore o gli interlocutori sarebbero di matrici anche... Però legate basta un po' alla religione, un po' all'Arabia Saudita, un po' agli Emirati Arabi, cioè a chi finanzia la parte jihadista, qaedismo pre-califfo. E stai attento, Lino, che anche con il califfo ci sono modi per parlare senza parlarci. Va bene, insomma, il nostro Andrea ci ha posto questa problematica. Caro Oscar, qui però dobbiamo parlare di questa vicenda che è finita sui giornali, e cioè il fatto che una farmacista di Monfalcone è stata assolta dal tribunale di Gorizia. era accusata di omissione o rifiuto di atti d'ufficio, rischiava 2 anni, sì. Perché si è rifiutata di consegnare a una donna che si è presentata con la ricetta la classica pillola del giorno dopo, perché sì, dopo evidentemente un rapporto sessuale non protetto, questa donna voleva assicurarsi di non rimanere incinta. E questa farmacista ha detto: guarda, io sono obiettore di coscienza, obiettrice di coscienza. Ecco, io, e voglio, quindi, io voglio richiamare. Se vuole, vada da un'altra, in un'altra farmacia. Ecco, io, i magistrati, come sempre, sì, sì, mi rispetto, ma a volte non le capisco, lo dico. Allora, qual è il regolamento del servizio farmaceutico? Addirittura un regio decreto 30 settembre 1938 dice, virgolette, i farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti in farmacia. Prima norma. Seconda norma, ai fini della legge penale, chi è il farmacista? Qualificato, virgolette, come incaricato del pubblico servizio per l'articolo 328... dice scritto, il pubblico ufficiale, l'incaricato del pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di sanità eccetera eccetera deve essere compiuto senza ritardo è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Guarda, ma noi intanto infatti abbiamo chiamato la presidente di Federpharma, Anna Rosa Racca. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Grazie. Allora intanto, vabbè, il dato di fatto è che c'è stata una sentenza e noi non è che dobbiamo rifare il processo. Noi la rispettiamo. Parliamo dei principi in generale. Questa farmacista, secondo lei, ha sbagliato, ha peccato di qualche questa tipo? Questa farmacia, secondo me, ha sbagliato. Io l'ho detto su tutti i giornali anche in questi giorni, avete giustamente detto voi, avete ricordato le norme, la farmacia italiana è il primo presidio del sistema sanitario sul territorio e non si discute, noi dobbiamo guardare se il medico ha sbagliato, se ci rendiamo conto che per esempio ha prescritto un antipertensivo di un antidiabetico e questo purtroppo nella vita è capitato, mi è capitato anche nella mia esperienza. Ma mai quando una ricetta è perfetta col farmaco giusto non dare quello che il medico ha prescritto. Non si può mettere in dubbio una prescrizione medica. Quindi assolutamente, non so che cosa ne pensano i tribunali, ma i farmacisti d'Italia andranno avanti nel loro lavoro che fanno quotidianamente, perché poi la gente ha fiducia nel farmacista e continueranno a occuparsi della salute della gente. E quando c'è una ricetta, come dico, il farmacista può controllare se questa non è giusta, ma non può certo rifiutarsi di fare quello che il medico ha deciso di fare. Devo dire che i magistrati, almeno a leggere un pochino gli stracci della sentenza raccontata dai giornali, dicono che è non colpevole anche per la particolare tenuità del fatto. Adesso comunque ricordiamoci, questa era una legge di alcuni anni fa, naturalmente, ma ormai sappiamo che la pillola, diciamo quella del giorno dopo, comunque diciamo è senza ricetta per le persone maggiorenni. Per i maggiorenni. È cambiata la norma rispetto a quella. Il dibattito però è se questo tipo di pillola sia considerata abortiva o no. Credo che l'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, abbia stabilito che non lo è, non è considerato un farmaco abortivo. Però è lì, credo, il dibattito, nel senso che questa farmacista si è qualificata come obiettrice di coscienza e quindi dice io non li avendo. L'ultimo aumento di questi consumi, addirittura diciamo un aumento di percentuale che va intorno quasi al 90% da un anno per l'altro, voglio dare dei numeri, calcoliamo per esempio nel 2014, calcoliamo da gennaio a ottobre perché ormai l'anno non è finito, in Italia se ne sono vendute 13.400 confezioni, l'anno dopo nel 2015, lo stesso periodo dal gennaio ad ottobre, 102.000 e adesso nel 2016, gennaio-ottobre, 200.507. Quindi diciamo un aumento esponenziale di questo che però poi ha evitato, naturalmente come è stato detto in questi giorni, anche aborti. Quindi questo è il risultato dell'avere lasciato senza ricetta questo farmaco. Vabbè, ma dal punto di vista, non so, addirittura potrebbe esserci un qualcosa dal punto di vista sanzionatorio nei confronti di questa farmacista, cioè dal punto di vista della categoria oppure... Tu dici dal punto di vista deontologico? Insomma, dal punto di vista deontologico, dal punto di vista dell'ordine, oppure no, lei ritiene che essendo stata assolta... Beh, c'è una sentenza, quindi penso che quando i deputati vadano anche rispettate le sentenze, però dico, questo non è... Non è il nostro orientamento. Però di tutti posso i chiederla, io ho noi siamo dietro un banco tutti i giorni per carità, servire la gente, per rispettare le ricette mediche. Io non chiedo di arrampicarsi per le impervie vie dell'interpretazione giuridica delle sentenze, però andando alla sostanza e pensando a chi ci ascolta, è chiaro che una sentenza comunque costituisce un precedente giuridico. E come no? E che quindi fa riferimento a dei casi. Se un giudice dice di particolare tenuità, e quindi e non è sanzionabile secondo quello che la legge prevede, se il farmacista viene meno ai suoi doveri, io penso, sbaglierò, voglio pensare di sbagliare, chiedo a lei che altri colleghi che la pensano come quella farmacista seguiranno l'esempio dicendo tanto. Io penso che allora in una farmacia ci deve essere un farmacista che è obiettore di coscienza, ma anche uno che non lo è. È come negli ospedali, il grande tema. Sono d'accordo. Fortunatamente in Italia ci sono 20.000 farmacie, quindi questo lo dico per i cittadini. Sono quindi d'accordo. Uno esce da una farmacia, entra in un'altra. Guardi, però, Presidente, abbiamo intervistato qualche giorno fa l'unico ginecologo che in Molise è non obiettore e quindi deve costretto a una vita di soli interventi esatto. Ma quella è una cosa già diversa, insomma, no? No, ma nel senso che fatto che non sempre, anzi molte parti d'Italia non è così, l'offerta sanitaria non è capace di equilibrare la presenza minima di obiettori con non obiettori. Noi siamo 70.000 farmacisti, 60.000, insomma qualcosa sul territorio. Mi sembra che il nostro lavoro lo facciamo seriamente e rispondiamo sempre alle esigenze di salute della gente, quindi questo mi sembra molto isolato, insomma. Va bene, intanto la polemica è un po' servita sui giornali, inevitabilmente, sì. Così è. Però, insomma... Io sono cattolica, per amor del cielo, però voglio dire, questo è un farmaco e allora era prescritto su ricetta medica e quindi secondo me il farmacista doveva rispettare la ricetta. Sì, in questo caso poi, come succede in varie situazioni, che era un turno notturno, era l'unica, quindi questa era di notte e questo ha un po' complicato anche la vicenda. Sì, ricordiamoci che comunque ci sono sempre, c'è un lasso di tempo più lungo, ci sono alcuni giorni, sì, per poterlo prendere. Ma infatti questa donna peraltro si è appunto 3 ore dopo, sì, è riuscita ad acquistare un'altra farmacia, sì, questa pillola. Sì. Noi la ringraziamo, grazie Anna Rosa Racca per essere stata con e noi, auguri. Presidente di Federpharma. Guarda che ci chiama Fabio da Venezia, buongiorno. Fabio, non c'è più. Fabio. Pronto, buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Intanto è un piacere sentirvi perché io vi ascolto tutte le mattine. Oh, che bello. Seconda cosa, era la curiosità mia. Visto che stanno ultimando la Salerno-Reggio Calabria e sarà ancora gratis, ma perché non facciamo in modo che anche nel Veneto e anche da noi siano le autostrade gratis? Visto che io faccio l'agente di commercio e a fine anno sono cifre le mie di autostrada. Si trasferisca in Calabria. È una battuta ovviamente, Fabio, è una battuta la mia, no, è una battuta, no, la mia ovviamente, no, però pone effettivamente una problematica, perché Fabio da Venezia deve pagarsi le autostrade anche salate, poi facendo l'agente di commercio viaggia abbastanza e invece in Calabria no. No, ma perché voglio dire, qui è una antichissima polemica, è una tipica polemica che affonda le sue radici nell'evoluzione stessa del sistema autostradale italiano e negli anni in cui, ricordiamocelo tutti, l'autostrada del Sole nasce come la grande opera, no, dell'unificazione nord-sud, effettuata in pochi anni, altri tempi, non c'erano le conferenze di servizio e così via. E le aree del mezzogiorno all'epoca erano interessate da un regime speciale, il regime speciale che poi sarà abolito, sono molto più avanti con la fine del cassa del mezzogiorno. Giorno, e quindi dipende da questo, perché le infrastrutture viarie, non solo viarie, erano considerate un'espressione ordinaria dell'intervento straordinario dello Stato ai fini del raggiungimento della parificazione dei gap mostruosi nel dopoguerra. I gap sono rimasti. Non è detto, non è che nel sud mancano le strade a pagamento adesso, quindi questo non è più così, però questa cosa gli italiani se la sono dimenticata, che era questa la vecchia ragione storica, sì, del fatto che però rimane no? Che però rimane, e a questo punto gli italiani dicono vabbè, sono passati decenni dai tempi della guerra, il gap è rimasto e allora non si vede perché a questo punto non pagare tutto. Io devo dire che un po' la penso così, a dire la vediamo verità. Se Giovanni dalla provincia di Brescia, ma deve essere molto sintetico perché stiamo chiudendo, 20 secondi. Giovanni, buongiorno. Sì, ciao Alessandro, grazie per la possibilità di intervenire, sì, su questo argomento. Volevo fare, dare il mio contributo sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del, sì, fatto. La sentenza è una sentenza tecnicamente assolutoria, quindi sensi del 530 codice procedura penale, ma che prevede che il giudice faccia una disamina nel merito e quindi dica sì, è stato commesso un reato, ma ci sono determinate condizioni per cui il fatto è di particolare tenuità, il reato ha una pena inferiore ai 4 anni e quindi lo assolvo, ma presuppone che il fatto sia stato commesso, cioè è ben diverso no, dal dire Sì, il sì. fatto non costituisce reato. No, o no, è chiaro. No, il fatto è stato commesso. Dice che la condotta è di particolare tenuità. Esatto. Cari ascoltatori, guardate che ho appena detto che ci sono le autostrade al sud, la permissione in cui si paga. L'ho detto, quindi non insorgete subito contro le notistiche. L'ho ripetuto. Mamma mia. Dai, ci vediamo domani anche per gli auguri di Natale. Ci sentiamo magari, vediamoci, è un po' difficile. Comunque, ciao a tutti.